visto il carabiniere dentro la Jeep, ecco, questa è la cosa che mi rimane impressa. Investimenti in democrazia, stabilità e pace dovranno essere produttivi, di profitto, naturalmente. Assedio alla zona rossa. Palla inclinata, la mano rossa. C'è i capelli neri, ho visto adesso qua, sì. Ho visto il carabiniere con la pistola in mano. La polizia schierata ha già preparato i lacrimogeni. C'è stato un tentativo di sfondamento, chiamiamolo così, anche se in realtà le reti non si sono mosse di un centimetro. Però sono confuso perché è un momento di grande confusione. Partito sotto un lenzuolo bianco in piazza di Monda, poco distante da Brignole. Era semplicemente un ragazzo in manifestazione.